Radio Wombat, non ce la facciamo. Tutte le volte è come fosse la prima volta questa sigla. È una festa, è una grande festa. È un ballo continuo, è inarrestabile. Sì, perché poi, cioè, ci dispiace che non ci potete vedere, no? Dovremmo fare come Radio DJ che c'ha la webcam, no? Perché almeno si può apprezzare il fatto che di puntata in puntata stiamo imparando sempre di più il balletto. Che ricordiamo è fatto con dei porri. Con dei porri, sì, c'è cioè dei porri perché si tratta di Hatsune Miku, quindi sì, il suo scettro è un porro, è fatto così, che si deve fare? È così che si conquista il pubblico giapponese, non si può fare altrimenti. Meraviglia. Bene, quindi benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Lovelace, trasmissione di FDUL, club fiorentino, che vi intrattiene un giovedì su due. Intorno sempre alle 21, oggi siamo in lieve ritardo ma neanche troppo, e vi racconta un po' di cose che riguardano la tecnologia, la fuffa tecnologica, anche la retorica dietro a questa religione tecnologica che ci ammorba. Sì, tutte le suggestioni che sì, intorno. Sì, in realtà vi parliamo anche di cose, cioè, generalmente ve ne parliamo male, ok? Però altre volte non anche troppo. Per esempio, l'ultima puntata vi abbiamo parlato di Cyberpunk ed eravamo palesemente e visibilmente affascinati da questo argomento. Però invece oggi parliamo di un argomento di cui io confesso subito, perché non vorrei che si creassero equivoci, io non so assolutamente niente di questa cosa. Quindi farò da il Pippo Baudo della situazione e intanto vi faccio provare i microfoni, perché vabbè, abbiamo complicanza, abbiamo come sempre alcune persone qui in regia. Eccoci qua. Che infatti si sentono bene, come si sentono bene questi microfoni, la Wombat regia. E poi abbiamo alcune persone online. Lontanissime. Infatti. Lontani ma presenti, ok. Ce n'abbiamo anche un'altra. Io volevo sapere di che porro stavate parlando. Eccolo, ok, c'è anche l'altra persona. Ecco, anche l'altra persona che come sempre... Ora non sai con che porro stiamo parlando, ma pensa te, ti manderemo un video, vai, ti mandiamo un link. E quindi sì, come sempre quando facciamo questi arditi esperimenti di regie sparpagliate un po' online, un po' no, giustamente la nostra, come dire, riprova e la tecnologia fa schifo, ci sono sempre un sacco di problemi, quindi siamo un po' in delay, siamo un po' in ritardo, ci sono un po' di gracchiamenti, un po' di scatti, ma d'altra parte che si deve fare? Sicuramente non ci stupiamo, No, quindi. dai, abbiate pazienza, perdonateci. Quindi di cosa parliamo oggi? Parliamo di biohacking. Esatto, sì, oggi Colpa di parliamo. Bill Gates. Quello sempre. Anche sua. Tra l'altro, ora, nel senso, con la tua introduzione, ovviamente ora fai credere che noi tutti ora siamo degli esperti in materia. No, Certo. assolutamente no, ma ci Ma no. proviamo. Comunque, sì, dicevamo, il biohacking. Il biohacking è una di quei termini che sentiamo dire o citare molto spesso di questi tempi, e come la maggior parte dei termini dove c'è grande interesse comunicativo, c'è il cosiddetto hype, in genere fondamentalmente la definizione diventa la definizione del termine diventa piuttosto fumosa, come nel caso di biohacking, che può voler dire tutto e niente. Nello specifico, le due principali interpretazioni che può avere il biohacking, almeno a livello attuale, ricadono innanzitutto sotto l'unico ombrello dell'alterazione biologica, quindi di ciò che genericamente si intende come naturale. Ma le due, diciamo, branche principali che oggi vorremmo trattare sono l'aspetto, diciamo, scientifico, biotecnologico e quello delle cosiddette embedded technology, che sono quegli affari che eventualmente la gente si mette sotto pelle Vari. per fini vari. Allora, a dire il vero, in genere ci sono degli studi molto buffi che studiano proprio perché le persone si fanno quelle cose là Che però e sono quegli studi che potrebbero anche essere orribili, non sono atroci, sì, no, no, come fai? ovviamente, no, no, no, ma sono buffi come forme, però insomma in genere proprio cercano di capire i motivi a monte, ecco, del perché si fanno queste cose. E in genere teoricamente nelle definizioni si trova sempre, ad esempio, il fatto che quelle tecnologie debbano quantomeno efficientare il corpo o comunque sia migliorare lo stato di salute. Ora, vabbè, insomma, appunto, non vogliamo sempre parlare male della tecnologia, però insomma, forse si intuisce la mia opinione. Di queste, diciamo, due branche, quindi quella biotecnologica più scientifica, quella più frequentemente citata, ad esempio, dai centri di ricerca universitari, militari e privati, ne parlerò a breve, mentre nell'altra proseguirà dopo il compagno da remoto. Sul biohacking in generale, c'è da dire sicuramente, appunto, parlavamo prima tra di noi, no? E nel cercare di dare una definizione generica, che andasse oltre, diciamo, al fatto dell'alterazione biologica dello stato, appunto, di natura, cercavamo un po' di domandarci quale fosse quantomeno il rapporto che c'è ad esempio tra l'industria e il capitale attualmente e questo settore largo. E diciamo che in questo senso ci siamo resi conto che ha delle peculiarità. Perché se ad esempio quindi tutto quel settore largo che si rifà all'alterazione biologica, quindi dalle biotecnologie in campo agronomico, farmacologico, biotecnologico, fino agli smartwatch sotto pelle, diciamo, è sempre presente un interesse da parte, diciamo, dei centri di potere, ma non è chiaro quanto attualmente abbiano interesse a investirci del denaro, in particolare nelle embedded technology, proprio perché sono delle tecnologie, diciamo, che sono molto più rischiose rispetto a avere dei robot da testare. E quindi ad esempio, in quell'ambito là il capitale ne è abbastanza fuori. In ambito Quando invece. dici Sì. centri di potere, intendi i poteri forti? No, Beccato. è vero, scusami. Cioè gatti. I gatti delfini e fondamentalmente i centri universitari che fanno ricerca per, in genere per apparati militari, ecco, per lo più mi riferivo a loro. No, stavo dicendo, quindi diciamo, in questo macro mondo che è il biohacking ci sono moltissimi interessi che vanno da interessi legati ai singoli individui un po' smanettoni e molto contemporanei che vogliono deformare il proprio corpo fino a interessi distopici che vanno su scala planetaria. Nello specifico, diciamo, ci sono per quello che riguarda le biotecnologie, quello di cui parleremo oggi, una tecnologia in particolare ha fatto breccia negli ultimi 10 anni che si chiama CRISPR, che praticamente viene dagli Stati Uniti circa del 2012, la prima volta che fu implementata, diciamo, che fu pubblicato largamente questo studio, e fondamentalmente è una tecnologia che attraverso l'uso di una proteina in particolare che si chiama Cas9 è in grado di alterare il corredo genetico delle cellule e di far sì che queste alterazioni vengano poi perpetrate nella trasmissione genetica, ecco, che quella cellula avrà durante il suo ciclo vitale. Questa roba che apparentemente è piuttosto, ecco, diciamo, complicata e spaventosa in un certo senso, perché si va letteralmente a fare un copia e incolla di delle parti del DNA, è sicuramente una tecnologia che ha dimostrato un'efficacia enorme in termini, diciamo, proprio scientifici e di produttività e di risultato, eccetera, eccetera. Ma ha ovviamente, proprio per questa sua, diciamo, presunta efficacia, ha suscitato anche un'enorme discussione sulle sue conseguenze, le sue controindicazioni, la sua applicabilità, perché una peculiarità, ad esempio, di questa tecnologia che diciamo, in ambito biotecnologico, vi ripeto, negli ultimi 10 anni è enormemente preponderante, cioè, diciamo, che è molto Sì, non lo so ora dove volevo andare a parare perché non, ti ripeto che non sono adatta io a parlare di questo argomento, però è chiaro che c'è un tipo di tecnologia che appunto ha delle evidenti ingerenze e che presenta delle problematicità belle pesanti. Sì, no, che diciamo che, ecco, che quelle controindicazioni sono state, hanno generato tutta una discussione appunto sul valore, diciamo, bioetico appunto di queste tecnologie. Sì, che poi tra l'altro questa cosa viene, cioè io mi ricordo che già un botto di anni fa si iniziava a parlare di biotecnologia e se ne parlava in termini dell'uomo nero, il Bau Bau, cioè proprio lo spettro di ecco, l'uomo che mette le mani dove non le deve mettere, ecco adesso faremo un disastro. Ora, Sì, no, non che questa cosa no, insomma no, abbia, no, cioè non ecco, è proprio campata in aria no, questa ecco. preoccupazione, però ecco effettivamente. Bisognerebbe andare a capire cosa fanno davvero queste cose e soprattutto con che, per che scopo sono pensate e come vengono No, utilizzate. ecco, grazie, hai appunto refreshato il mio pad che scompariva. Sì, abbiamo un po' di problemi con i No, pad. esatto, sì. No, in ogni caso, no, intendevo. Sì, una cosa del genere, proprio che ad esempio una prospettiva esatto che è cambiata almeno dai fautori di queste ricerche è proprio che in generale, almeno ad oggi, appaiono in genere come progressisti, quindi in generale propongono queste tecnologie come risolutive per dei problemi diffusi, enormi, arcinoti, apparentemente risolvibili, come ad esempio è stato fatto con la malaria, perché questa tecnologia CRISP, di nuovo CRISPR, tramite appunto questa alterazione genomica che va a tagliare il DNA, è in grado fondamentalmente di far estinguere delle intere specie ecologiche. Di fatto lo fa, nel caso della malaria, tramite fondamentalmente un'alterazione del DNA che fa sì che la generazione successiva a cui viene introdotta questa alterazione sia sterile, quindi non sia in grado di riprodursi. Quindi di fatto si fa sì che la prima la infetti, la seconda diventa sterile. Cioè, quindi non è E che, per capire proprio da profana, cioè, quindi non è che io sto eliminando il problema, cioè sto eliminando no, i vettori, cioè nel senso. no, no, no, no. La questione è che il problema. Il problema poi, ammesso che un virus No, sia un no, problema, vabbè, però nel senso il insomma. problema dichiarato, sì, Sì. il problema dichiarato è molto probabile che venga risolto, è molto molto probabile, cioè sembra estremamente efficace, cioè sulla sua, soprattutto nell'eventualità in cui appunto ci sia l'interesse di uno Stato che fa una campagna di diffusione massiccia, cioè che poi appunto la tecnologia, cioè sono argomenti estremamente complicati perché oggettivamente si parla di stati, quelli in generale della fascia subsahariana, dove ad esempio l'incidenza della malaria è altissima, l'età media, la mortalità, cioè si muore molto giovani, oggettivamente per quelle cause è un problema enorme, quindi si va a solleticare una suscettibilità, un lato debole che è tipico dell'Occidente, dei suoi comportamenti comunque sia postcoloniali e quindi insomma, Sì, di ergersi, ma immagino un po' il però sta di sogno. fatto che diciamo l'approccio, il cambio ecco, diciamo, rispetto a quell'uomo nero che citavi te prima, dell'OGM malato, quello proprio da ripudiare in tutto e per tutto, per sempre, è che è un mondo progressista quello che lo sostiene, quindi che cioè, almeno quello che Formalmente. almeno a me appare come progressista, cioè che si propone come diciamo, usiamo la tecnologia bene per risolvere i problemi che voi non siete in grado altrimenti di risolvere. Beh, anche perché, scusa, la questione del ti elimino le malattie dal mondo è proprio come dire sono Dio, cioè nel senso. Sì, no, ovviamente poi la questione principale di questa, diciamo, cioè dell'implicazione principale è che tutti vengono a dire sì, ok, risolvi questo problema, ma non serve appunto un dottorato per capire che l'ecologia è un sistema complesso di interrelazioni e quindi non è che si può semplicemente levare un elemento e aspettarsi che non succeda niente. Per quanto quell'elemento possa sembrare dannoso, noioso, quello che ti pare. Quindi la stessa. Non mi ricordo come si chiama l'insetto esatto della malaria, a parte il moschito generico. C'ha il suo perché, poracci. Sì. Va Vabbè. bene, quindi questo per quanto riguarda un po', abbiamo iniziato a accennare e soprattutto abbiamo iniziato a raccontare un po' CRISPR. Se siete d'accordo, io metterei un pezzo di musica, così ci prendiamo un attimo di pausa Sì. e poi proseguiamo in questa prima parte che ci parla un po' di questo tipo di tecnologie, appunto dal volto, se non buono, quantomeno di risoluzione di problemi, insomma, che si candidano a giustificare poi tutto un intero apparato di ricerca su questo tema. Ci ascoltiamo un po' di musica, se mi riesce di caricarla con il mio potente internet. No, non mi riesce. Sì, eccola. Con calma. Molta calma. Thank you. vorrei buttare due info. Sono chiesto io, quant'è la vita di una zanzara? Per capire anche poi. Se parliamo noi ci sentono? C'è un pezzo vuoto alla fine del pezzo. Noi la prendiamo atto. Sì. Dopo aver imparato che se si parla sotto la musica si sente. Capito? vabbè. Bene. Quindi vi ricordo anche, già che ci sono, i contatti social Wombat, perché non vi li ho detti, me ne dimentico sempre, ovvero radiowombat.net, ovviamente il nostro sito sul quale potete, insomma, scriverci, guardare cose, ascoltare podcast e più che altro ascoltarci in diretta. Poi la casella di posta wombat@insiberia.net, e alla quale mandarci insulti o lodi. E poi il nostro pad diretta wombat.vado.li, che quando siamo in diretta, come evidentemente adesso, potete, insomma, usare per parlare direttamente con noi e, insomma, di darci anche dei consigli. Per esempio, ci dicono a un nostro wombato suggeriscono di mettersi la canottiera. Non so bene se per la musica concitata e quindi chiediamo di chiarire meglio che tipo di canottiera. Di lana, cioè. Dici perché forse fa freddo penso nella wombat regia. Penso di sì. È la mamma che glielo dice, cioè tua madre che ti sta dicendo di coprirti meglio. Ah, sì, è un esperto di tartarughe e di linguaggi buffi. Tua madre è un esperto di tartarughe? Sì. Vabbè, hai visto. Sì. Ah, per sì. Quello che sei così scienziato. Vabbè, si sa. Bene, quindi dicevamo, eravamo rimasti all'altra parte del discorso. Sì, a CRISPR, quindi a questo Ma tanto noi con il CRISPR le abbiamo fatte estinguere le tartarughe. Ecco, infatti. No, ancora no, dai. Poverine, che avevano le tartarughe di sbagliato. Poi sono tartarughe cioè noi. Che cos'è quello che ho visto l'altro giorno? Hai visto una tartaruga? Quale tartaruga? Non esistono più le tartarughe. cioè stiamo parlando di droghe. In ogni caso le tartarughe quelle, si riferiscono quelle di mare, quelle di mare. Ah, ok. Vabbè, in ogni caso, dicevamo, le tartarughe ancora sono salve, non sono state ancora estinte da CRISPR, ancora, e, che è, dicevamo, questa tecnologia, biotecnologia che dal 2012 circa in poi ha spadroneggiato in, nella ricerca e anche nell'industria inizia biotecnologica, che fondamentalmente è basata su l'utilizzo di delle proteine per modificare il DNA, il corredo genetico delle cellule. In pratica inizialmente fu testata su degli organi unicellulari batterici, poi si capì che poteva, che era molto efficace, fu testata sia sui vegetali che anche su cellule animali. L'efficacia, appunto, dicevamo prima, di questa tecnologia ha fatto sì che venisse proposta per insieme alla Gene Drive Technology, cioè quel meccanismo che dicevamo prima, cioè quello di far sì che l'alterazione abbia un'onda lunga, cioè vada a ragionare sull'aspetto generazionale, quindi di trasmissione del codice genetico, quindi io altero una generazione cioè facendo sì che questa alterazione sia così forte da rimanere nel corredo trasmesso poi alle generazioni successive. Sì, cioè in realtà il gene drive è il gene che non segue propriamente quella roba, diciamo tutta l'evoluzione classica mendeliana, ma in realtà praticamente si trasmette quasi sicuramente da padre a figlio. Esattamente, sì. Quindi aggira il meccanismo, diciamo, la combinazione statistica. Oddio, è vero, non mi ricordo nemmeno se è più mendeliana, però insomma il meccanismo, ecco, un po' randomico, in cui ci sono possibilità e ambiguità nella natura del tutto sane, e si fa sì che certi caratteri vengano imposti al patrimonio genetico di tutta la popolazione e delle generazioni a venire in quella popolazione. Cioè, ad esempio, nel caso della sterilità non è che si crea un gene della sterilità, si appunto facilita quel gene in particolare, quindi si fa sì che quel caso raro, magari che è una malattia per quell'organismo, venga reso certo. E cioè, quindi scusa, cioè se io volessi facilitare il gene del diventare biondi, cioè potrei fare in modo di avere una popolazione futura di tutti biondi e Hitler sarebbe contentissimo, fondamentalmente. Sì, nel senso, ovviamente, ecco, la possibilità, ecco. No, mi veniva in mente un uso di ricerca così a caso. Allora, è più questa qui è una tecnologia che ha oggettivamente una forza, è potenzialmente, sì, ha questi, può arrivare a questi, ecco, orizzonti distopici, almeno è così, di ideali di qualcuno, ecco, forse sì, perché oggettivamente, anche se il movente può essere del tutto benevolo, ma l'idea di eliminare completamente l'insetto, un insetto che tra l'altro è tremendamente presente in maniera totale da una regione, insomma, ti fa un po', ti dà l'idea della sua forza. Ad esempio, un altro posto dove o comunque sia un'altra situazione dove viene spesso proposta in un meccanismo del tutto analogo è quella dei roditori in generale, che sono un problema in genere anche quello di molti stati caldi, comunque sia, e soprattutto degli stati dove negli ultimi anni sono stati registrati un innalzamento delle temperature, comunque sia, tipo ad esempio l'Australia, Nuova Zelanda, che comunque sia erano già caldi, ma hanno registrato degli aumenti e hanno avuto delle cioè le popolazioni di questi roditori sono esplose tantissimo, hanno avuto un impatto nell'agricoltura enorme, perché hanno ovviamente divorato i campi e anche là hanno proposto queste tecnologie. Ovviamente la ricezione che c'è in Nuova Zelanda non è la stessa che ci può essere uno stato, ad esempio, come il Congo, o comunque sia un altro stato di tutta la striscia subsahariana, e anche perché appunto da una parte si tutela la vita, cioè si propone di tutelare la vita, da quella si propone di tutelare il raccolto, che è un po' diverso. Ma scusa, rimanendo sulla Nuova Zelanda, perché sì, prima parlavamo della malaria e parlavamo appunto di questo poveraccio dell'insetto della zanzara, che te l'hai anche scritto, si chiama Anopheles, almeno te hai scritto così, non so se è una supercazzola. Io non lo vedo più mio padre, quindi io non lo vedi proprio più, no, stai andando a braccio, molto bene. Beh, no, però in realtà, ti faccio l'assist io, ci sono anche una serie di, cioè c'era il problema di un altro animaletto fastidioso, ovvero i roditori in generale, cioè i topi in Nuova Zelanda, e di tutto il problema appunto che sì, appunto che mangiavano, e lì c'era tutta la storia del fatto che comunque i topi in Nuova Zelanda non c'erano. Ah, no, sì. E sono stati introdotti fondamentalmente dai coloni, quindi è buffa questa cosa di voler risolvere un problema che hai creato tu di base, perché sì, ora sì, la malaria no, effettivamente, però cioè, tanto hai alterato tu un ecosistema e proponi di risolverlo alterandolo in un'altra volta. Sì, sì. No, dicevi benissimo, i topi sono un... si dice, almeno che siano un effetto collaterale fondamentalmente del colonialismo, cioè le portate dai coloni, dalle barche dei coloni, erano, come era tipico, portarsi dietro, non so, un pollo, animali. Capitava spesso che queste barche avessero dei topi e venivano anche questi trasmessi. Tra l'altro sono, ad esempio, in Nuova Zelanda la questione dei roditori è... In tutto il Novecento, ad esempio, è stata molto problematica, perché anche ha fatto fuori fondamentalmente un bel po' di specie, cioè di uccelli, il kiwi, insomma, infatti, l'uccello tipico neozelandese, mi pare, fu proprio perché mangiavano le uova e facevano fuori. Comunque sì, insomma, questo per dire, ad esempio, che che almeno al momento la tecnologia, tutto questo sovraccitamento verso queste biotecnologie è diciamo spinto quasi sempre in forma risolutiva di un problema, mentre magari prima poteva l'aspetto, ecco, che spingeva di più era quello dello stupore, dell'avere un cocomero a forma di stella, come dicevano nei primi anni 2000, la pecora Dolly, sì, o le cose strambe. Adesso invece si richiama di più alla necessità di... ed è interessante come appunto cioè io mi sono letto un po' di, ad esempio, di documenti dell'Unione Europea, così che cercava di mettere un punto sulla questione della regolamentazione di ciò che è lecito o non è lecito, almeno in Europa. E fondamentalmente si finisce sempre per dire è troppo complicato, vedremo. che spesso, insomma, ecco, è una forma ambigua per lasciar fare. Sempre cioè in un'isola che non era la Nuova Zelanda, essenzialmente, che era molto piccola, era un altro dei posti dove avevano proposto di sperimentare il discorso dello sterminio dei topi, che anche lì avevano un problema di invasione mostruosa dei topi, e in realtà c'era anche invasione di altri animali, nel senso che non erano autoctoni, però era molto più semplice ucciderli tutti o comunque contingentarli. E fino adesso avevano proposto di tipo spostare tutta la popolazione, spostare tutti gli animali e con l'elicottero lanciare il veleno per topi, cioè in maniera proprio sistematica su tutto. Dopodiché si sono presentati con questa nuova idea del CRISPR, che però anche lì uno dei problemi grossi che ha suscitato è stato che, ok, siamo in un'isola, ma come i topi sono arrivati con le navi dei coloni per sbaglio il 99% delle volte, per sbaglio uno di questi topi che porta un gene che li rende sterili e che è un gene che si trasmetterà sicuramente, che quindi porterà allo sterminio di tutti i topi. Che cosa succede se per sbaglio uno di questi topi monta su una barca e sbarca in un altro paese? Sì, sì. Esatto. E questo è uno dei grandi problemi etici, diciamo. E simile c'è stato con la zanzara, perché le zanzare in realtà le hanno già provate dentro una specie di serra gigante dove non possono uscire in un, diciamo, controllo tecnico, diciamo scientifico. Però sì, quello lì già lo sperimentavano nel 2019, quindi ora non so a che punto siano, ma no, ma dei test cioè sulla malaria, insomma, hanno fatto già dei test abbastanza estesi in laboratorio. Ora all'aperto sinceramente non lo so, però ad esempio sì, cioè è tutto. Cioè, ad esempio, una cosa buffa che veniva, cioè, in una commissione, ad esempio, viene fatta una domanda: e cosa succede se una di queste zanzare della prima generazione che viene alterata viene mangiata, come inevitabilmente succederà, da una mucca, una persona, non lo so, da un altro essere umano? O una vivente? Cosa succede? Nel senso, è del tutto, non lo sappiamo. Cioè è una controindicazione, cioè alterando, non puoi pensare che alterare un elemento ecologico non abbia alcuna implicazione, e quell'implicazione spesso viene banalizzata come il pesce a tre occhi o quello che è, ma magari è più semplice, ecco, la controindicazione, o il meccanismo, ecco, di trasmissione. Perché nel senso, nella bilancia di queste decisioni, uno dice guarda, ti salva dalla malaria, però in compenso te magari come rischio, sì, mi proponi un rischio esagerato e... Sì, cioè di base non sappiamo come si comportano questi pezzettini di DNA alterati negli altri organismi, nel senso che effettivamente poi, appunto, l'uccellino che mangia la zanzara perché se ne nutre, non sappiamo poi come si comporta questo pezzo di DNA nell'uccellino, cioè potrebbe creare delle robe nell'uccellino. No, esatto, ma cioè perché magari ha sintetizzato, ne so, delle proteine particolari, quindi tu te le mangi e ti assimili, ma perché è molto grosso, cioè non lo so, a caso, no, insomma, è fare un po' il demiurgo veramente, sì, cioè andare al in ogni caso, cioè, l'idea di cioè, avere una tecnologia che è artificialmente in grado di estinguere una popolazione ecologica, o comunque sia di ridurla all'osso, è... Io vorrei vedere, sarei curiosa di vedere le slide, cioè quello che ha dovuto proporre, no, la soluzione. Adesso spostiamo tutte le persone, tutti gli animali, e poi mettiamo tutto il veleno con le slide. Me ne immagino un PowerPoint che faceva vedere l'animazione. Deve essere stato un momento molto bello. Ma no, no, poi ovviamente in genere su queste, cioè in queste questioni, le varie comunità dove vengono applicate queste, dove vengono proposte essere applicate queste tecnologie, cioè vengono o interpellate o si oppongono a queste cose, ecco. E chissà come, ma strano. Sì, no, ma retrogradi. Sì. Bene, io metterei un altro pezzettino, così poi ti riattiviamo anche il pad. E poi passiamo a parlare della seconda parte, perché appunto abbiamo accennato un po' all'inizio di trasmissione che sì, c'è tutta questa. Sì. Volevo dire una cosa che mi sono dimenticato. Sul discorso che si diceva prima dell'alterazione nel caso di, appunto, essere ingeriti o comunque di entrare in qualche modo in un altro organismo, la cosa buffa è che in vari esperimenti che sono stati fatti col CRISPR, uno di tutti era appunto per togliere o comunque eliminare delle malattie genetiche su embrioni. Quello che è stato scoperto di buffo è che loro hanno fatto tutti i meccanismi per far sì che ci fosse una correzione genetica della parte malata che trasmetteva la malattia. Quello che è successo è che niente, la malattia c'era uguale e di base non hanno capito perché. E questa roba è un po' particolare perché appunto in vari studi che hanno fatto, su cui tra l'altro abbiamo creato un cyborg per riattaccarsi alla puntata dell'anno scorso, nel senso che è stato creato l'organismo vivente che è, diciamo, batterio con minor numero di cromosomi al mondo, che è totalmente sintetico. Quell'essere vivente su 473 cromosomi, mi sembra che è la roba veramente più piccola del mondo, 149 non sanno cosa sono, nel senso che loro sono partiti da un batterio che ne aveva tantissimi, tipo 500 milioni, una cosa del genere, e hanno tolto finché questa roba comunque restava viva e dicevi boh vabbè, si altera un po' ma vive. E a un certo punto sono arrivati a 473, dopodiché hanno visto che 140 e passa, non mi ricordo il numero preciso, non sanno cosa facciano, ma se li levano muore. E è tipo un quarto, un terzo del cromosoma, del patrimonio genetico, il che significa di base che noi tendenzialmente andiamo a toccare una roba e nella migliore delle ipotesi non sa bene come funziona, perché non abbiamo un'idea di insieme di come ancora funziona il genoma umano, e questa è la, diciamo, è questa la pericolosità poi della roba. Non saprei troppo delle cifre, però sulla complessità, cioè appunto sulla sottovalutazione della complessità, sì, è in dubbio. Bene, comunque stiamo cercando, l'obiettivo di questa trasmissione penso che sia, come quello delle altre puntate, di terrorizzarvi completamente, sì, e dirvi che la fine è vicina, siamo un po' tipo il Medioevo, no? Quelli che iniziano a fare morirete tutti, cioè un po' così, i menagrami. Bene, quindi con questa allegria di fondo che ci contraddistingue mettiamo un altro pezzone classico, sì, medievale, tipo la danza della morte, no? Mettiamo Siuxi, che invece era un'allegrona e che infatti ci fa sentire Happy House. Thank you. rieccoci in regia, sempre Lovelace, sempre Radio Wombat ovviamente. Veniamo a trattare l'altra pezzetto che vi volevamo raccontare oggi, perché poi in realtà chiaramente l'argomento è vastissimo, perché noi siamo sempre, ci buttiamo sempre questi argomenti così modesti e oggi parliamo di scienza. Sì, infatti. È così. Però quindi abbiamo chiaramente non possiamo esaurire le cose, anche perché io non ne so un cazzo, l'ho detto, però voi invece siete grandi esperti, ma non è che proprio ora sapete tutto, e quindi non è che possiamo esaurire l'argomento. Però oltre a quello di cui vi abbiamo parlato finora, volevamo anche un po' entrare nella parte un po' più, volendo, giocosa anche della faccenda, un po' anche per almeno alcune persone piacevole, che sono gli impianti, quindi le cosettine che si mettono sotto pelle, ciò che ti rende un po' cyborg, non i pacemaker, quegli altri, gli aggeggini. E quindi se ci senti, o tu che sei dall'altra parte del mondo, sì, bene, raccontaci un po' questa parte qui. Allora, gli impiantini diciamo che, partendo da una cosa invasiva come la modificazione del DNA, addirittura con CRISPR, arriviamo a una formula un po' più gore, se vogliamo, una formula che delle soluzioni che mi fanno un po' accapponare la pelle per quanto siano eseguite, che riguardano tutta la parte di oggetti elettronici, informatici, che restituiscono informazioni, cambiano informazioni e che risiedono nella nostra epidermide, una cosa molto molto molto strana. Tutti questi impianti vanno da quelli che sono dei magneti, come? Epidermide. Nell'epidermide, giusto, grazie. Partiamo da quelli che sono i magneti messi nelle punte delle dita per sentire il campo elettrico che risuona dalla corrente alternata, fino a quelli che sono soluzioni più funzionali, che possiamo dire funzionali, il controllo dell'indice glicemico nel sangue, non sto sbagliando, entra un po' in un campo sconosciuto, e perciò entriamo qui dentro. Allora, gli impianti sono tutti quei dispositivi elettronici informatici che mettiamo sotto pelle, messi all'interno di una patina, di una protezione inerte, bioinerte, che possono essere capsule di vetro, delle piccole capsuline di vetro, oppure rivestiti di silicone, oro oppure alluminio, che vanno a, secondo la retorica esposta da le varie persone sotto questo esperimento, possiamo chiamarlo a questo livello, di aumentare i sensi umani. Ora non peserei tanto questo termine qui. Sono delle operazioni, degli innesti che si pongono nella più pesante modificazione del corpo, e infatti queste operazioni qui ricadono nei body modifiers, non esistono operazioni chirurgica riguardo, e è uno spettro molto molto ampio che li chiude all'interno, materiali che possono portare al rigetto dell'impianto, operazioni chirurgiche molto rischiose anche, e iniziare subito poi effettivamente con la ciccia. Allora, ma posso chiedere, partendo con i biomagneti, volevo chiedere informazioni sui biomagneti, quindi ascolto. Ci stiamo. Allora, questi biomagneti sono fondamentalmente dei magneti a neomidio, dei magneti permanenti, che si vanno a mettere prevalentemente alle punte delle dita, visto la grande presenza di nervi, e quindi la sensazione è effettivamente più sensibile, tra virgolette, riprendendo il termine, in quanto questo magnete va a reagire tra i vari campi elettromagnetici della corrente alternata. Leggendo un po' nel web, effettivamente ci sono persone che danno delle esperienze, scrivono dei commenti, soprattutto su Reddit, quindi vanno prese con delle pinze, che avvicinandosi a quelli che sono poi i cavi della corrente, oppure semplicemente qui non saprei se è giusto dei condensatori, ma non lo so se è giusto, lo leggevo a riguardo, ma non so, sempre Reddit, riescono a percepire o meno la presenza di corrente. Questo avviene dal fatto che il magnete si va a ruotare, va a girare all'interno del dito, andando quindi a premere sulla sacca di carne, una cosa un po' strana, un po' da accapponare la pelle, e quindi a muovere quei nervi e a far sentire la presenza di questo campo elettromagnetico. E questi magneti qui non sono piccolini in realtà, perché si parla anche di 14 mm, inseriti prevalentemente sulla punta dell'indice, escludendo il pollice oppure anche il mignolo oppure il polso. E per l'appunto questi personaggi qui, che vengono chiamati, definiti come grinders, si vanno a innestare questi magnetini qui. Io Ed effettivamente volevo rassicurare chi Sì. ci ascolta che ogni tanto si sente praticamente te che ti raddoppi, cioè come se parlassi due volte o Dal sopra l'altra. futuro. Sì, perché c'è un ritorno ogni tanto dovuto probabilmente al ritardo con cui ti riceviamo e quindi ogni tanto si sente che c'è tipo un secondo te che parla, quindi insomma, però è tutto normale, va tutto bene. Posso dire, in realtà è un impianto questo qui. Ecco. Ma io volevo chiedere, ma perché? Cioè, che serve sentire la corrente con le dita? Cioè, nel senso, cioè, anche se ti lecchi il dito nel fili nella presa, secondo me la senti, non c'è bisogno di mettersi Sei vecchio. un magnete sulla punta. Cioè, a parte, appunto, no, non riesco veramente a trovare un senso a questa roba, anche perché esistono delle specie di penne che fanno esattamente la stessa cosa, che quindi puoi tenere comodamente in mano senza bisogno di infilartele sotto pelle, e fanno esattamente la stessa cosa. Ma poi trovo una miriade di controindicazioni nell'avere un magnete nel dito, del tipo ti rimane attaccata la roba di ferro. Quello è Cioè, bello però, se vabbè, io se oggettivamente vado in pensaci uscita. che c'ha i suoi perché, però Sì, cioè, poi vai sì, tipo in cioè. gioielleria e fai un sacco di... Ah, ma è perché c'è il coso Cioè, sotto pelle? no, Fai finto tonto e solo il rubi tutto, ferro, così, guarda. cioè ti rimane solo il ferro, quindi non è nemmeno In troppo. effetti è vero. Forse la forchetta è inox, non è che si attacca tanto, però un pochino la roba delle forchette, perché inox è il cazzo, quindi un po' si attacca. Però, cioè, è veramente scomodo, veramente non capisco. Allora, praticamente noi adesso questa puntata, ve ne sarete accorti, facciamo un dibattito e abbiamo il vecchio che praticamente fa: no, ma che è sta merda? Io non capisco sti giovani Salve, sono d'oggi. il vecchio. vecchio. Ai miei tempi. E poi invece abbiamo l'entusiasta, no, è una figata! Che non so chi è in realtà di noi l'entusiasta, però dai, facciamo, qualcuno lo deve fare. Quindi. No, in realtà, Ma ecco, io io ti dico, tra penso questi non... innesti qui. No, penso che non è, no, l'obiettivo nostro non è dare un giudizio su queste cose, e anche perché io un'opinione in merito, vi devo confessare, non ce l'ho. Cioè, di base, se una persona individualmente decide di fare una modifica al proprio corpo che non provoca danno ad altre persone, altri esseri viventi, non, di per sé non mi sento giudicarla particolarmente, se non magari potrei dire io lo farei o non lo farei, ma insomma poi sono un po' alla fine fatti suoi. Però ecco, è interessante perché comunque c'è un fascino dietro che evidentemente, cioè la tecnologia, questo insomma, a seconda di come la si guardi, se la guardiamo da un punto di vista scientifico, tecnico, filosofico, comunque sia non ci lascia indenni, questo ormai l'abbiamo politico, ecco, non ci lascia indenni e quindi è chiaro che insomma, anche da questo punto di vista ci sono persone che ne sentano molto, ne subiscano molto il fascino e quindi insomma non mi stupisce tanto, non so dire come la penso al riguardo, No, non... ma a me non mi dispiace cioè, nel senso, non voleva essere una critica a chi lo fa, volevo proprio capire a cosa Ma se ti fai serve, cioè. piercing non ti darà fame. Non tornare a casa. No, no, no, veramente, cioè, non riuscivo proprio a capire l'utilità. Ma magari, appunto, tu che, Red, hai letto un sacco di forum su sta roba, magari c'è scritto perché, no? Ma diciamo in realtà la motivazione più grande è perché fa figo. Su molti innesti del genere, altri innesti che sono ancora più, cioè, inutili, sì, lo posso dire, lo voglio dire. Per esempio, un altro innesto è sono i LED subcutanei, sottocutanei, il che, cioè, un magnete posso capirlo. Io il magnete mi affascina perché comunque la presenza della corrente o meno sono curioso di come potrei sentirla e se potrebbe essermi utile. Poi quando si passa tutta la pletora di LED sottocutanei oppure tatuaggi fatti con materiali fluorescenti o comunque UV, lì un pochino mi cade la cosa. E leggendo uno dei commenti che mi è rimasto più impresso è per l'appunto di questo manutentore che lavorava in una fabbrica e lo usava tutti i giorni, cambiando comunque Effettivamente. le schede e tutto quanto, è quasi arrivavano a un tool, potrei dire, dal Stupendo. punto di vista, Ma tipo una domanda, però non avendolo sperimentato di prima persona. lo chiamavano cercafase. Ottimo, un vecchio mi ha dato. No, ma a parte tutto, una domanda, ma quindi quanto è semplice, cioè quanto sono effettivamente accessibili? Cioè, uno lo prende e Allora, si buca? Come fa? Come lo fa da sé? ci Ci sono sono due delle modalità. aziende? Ci sono delle aziende che vendono i magneti. Queste aziende che vendono i magneti scrivono lì sul sito e sulle varie cose che non prendono nessuna responsabilità riguardo e non ne sanno nulla. Nessuno ti fa l'operazione se non dei body piercer che sono esperti nella modificazione del corpo, quindi nella roba un po' più estrema. E questi magneti qui sono solitamente, per esempio, l'ultimo che è uscito, che è uno credo dalle mie ricerche più sicuri perché comunque è rivestito da del titanio, no scusa, dell'alluminio, da una piccola patina di alluminio per appunto evitare il rigettamento Beh, no, no, dell'innesto. non mi sentirei di dire che è tanto sicuro perché cioè, l'ossido d'alluminio è cancerogeno, però. Ai miei tempi. Ti fa Sì, poi male. boh, alzo un pochino le mani. Mi sembrava più sensato il titanio, però forse costa troppo. No, ma lo sai che forse mi sbaglio? Lo guardo subito, nel Ma no, frattempo. ma lascia Che sono perdere quel multitasking io, se vecchio. non lo sapevate. Continua. E fondamentalmente si riservano due soluzioni, cioè due operazioni. La prima, ed è la più facile, e riguarda sia gli impianti NFC e RFID per la comunicazione dei dati, e sia per i magneti, che è una siringa che tu effettivamente ti vai lo sto rifacendo in reale in realtà per spiegarlo per benino. Ah, per quello Tra ogni il tanto ti si pollice e sente. l'indice andando a chiudere i diti. Sì, esatto, mi sto preparando. C'è un pezzettino di carne. In questo pezzettino di carne viene inserita una siringa e viene sparato un per i chip solitamente viene NFC. fatto per NFC qui all'interno, quindi non c'è un post ambulatorio, si può dire, e non c'è un post Ed operazione in realtà. effettivamente Prende dai 30-40 secondi, non serve teoricamente del personale altamente formato, come può essere l'innesto di un magnete che richiede l'incisione di un pezzettino di carne che va fino a una decina di millimetri per l'inserimento del magnete, che questo riguarda fare un'incisione sulla punta dell'anulare solitamente, scavare con uno scalpello e poi inserire il con magnete, scalpello. saturare e richiudere. Sì. Perché andando a tagliare direttamente con lo scalpello e togliere della carne, si va a inserire il magnete, si richiude con la sutura e lì si crea una sacchettina di carne dove il magnete poi si va a girare quando è influenzato dai campi magnetici. Quindi Ok. diciamo che fondamentalmente Però insomma, ecco, in generale è questa cosa dici è estremamente tutto molto gore. bello. Quindi adesso che ti sei scalpellato un dito no, adesso che ti sei scalpellato un dito hai la grande fortuna di sentire dove passano i fili nel muro. Esatto. Che comunque fa comodo, non ho capito. Sì, no, effettivamente no, sì, dai, cioè, penso. Però ecco, insomma, quindi inizia a essere relativamente accessibile come roba, come alterazione. Ecco, noi lo sapevamo. Grazie. Comunque sì, giustamente sul punto, i nostri appunti c'eravamo scritti che comunque i gatti e i cani questa cosa la fanno già da un sacco e non è che se la tirano da grandi innovatori tecnologici. Loro i chip addosso, sotto pelle, ce l'hanno già da un sacco, aprono le porte, entrano e escono come gli pare, insomma, quindi boh, siamo sempre gli ultimi. No, e poi tra l'altro mi sorprende che non c'è stata un'obiezione del nostro collega di una certa età, perché comunque sia il pacemaker, perché il pacemaker non è biohacking, comunque sia, cioè, quello è di brutto, cioè, più embedded di quello, tra l'altro quello è industria 4.0, vabbè, a bestia, ma senza quello muori, quelli ai tempi duravi tutta la vita, infatti, con quei pacemaker là, quelli di una volta, capito? Andavano ora, con Edison. Ora li fanno d'alluminio. Tipo, no, non è più la stessa. Non sono più gli stessi, cioè, pacemaker. Giravi col pacemaker, però riattaccava la 220. Ti portavi dietro la prolunga quando andavi al supermercato. Va bene. E quindi poi anche una correzione. No, vai. Scusa. Era titanio. Quei magneti sono coperti di titanio. Ah, ecco. No, sennò c'era anche da sentire Wolverine, come insomma, perché c'era anche, cos'è che usava Wolverine, l'adamantio, l'adamanto, non lo so mai dire. Sì, quello. Adamantium, sì. mi posso già vendere per un ottimo impiantista, quasi, guarda, due o tre tagliettini col bisturino. No, ho capito, te come impiantista fai schifo. Cosa perché fai, comunque giovedì? Vai lì e gli fai tipo, no, ma perché lo fai, scusa, ma pensaci, ma no, ma che, ma no, cioè, ma comprati un paio di jeans. No, io sono diventato assolutamente favorevole adesso. Ah, ci hai visto i soldi. Una guerra con cerca fase. Ma infatti dici più che altro, Red, gli usi... Vabbè, chiaramente ci sono vari usi per in particolare gli RFID e gli NFC, però tra gli usi più tipici, diciamo così. Allora, vogliamo partire da quelli raccapriccianti, secondo me? Non lo so, ho paura. Tra quelli ci sono il beggiare a lavoro. Ecco, questo forse vince. Siamo nel raccapricciante ormai. Mm-hmm. Ma e perché poi, cioè, poi il pagare, usare il... Ecco, ti abbiamo perso. Dimmi. Cioè, tipo quello del badge al lavoro. No, cioè, ci sono. Per me è davvero una roba, proprio mi viene i brividi, ma cioè è realtà. Cioè, ci sono delle aziende che già lo fanno, una cosa del genere. Cioè, io non lo so. Cioè, che tipo hanno, che impongono, che riescono, cioè, a imporre ai propri dipendenti di infilarsi una roba sotto pelle? No, la cosa è che forse parallela si può dire che essendoci, per esempio... Vai col telefono NFC, quindi c'hai il tuo badge sul telefono e pam, badge, oppure c'hai una carta NFC che ti badge così. Se tu ti metti e copi quell'NFC dentro al chip che ti innesti, lo puoi riusare. E sono NFC riprogrammabili, quindi tu a quel punto badge con la mano, per esempio. Certo, poi così, se ti rubano il telefono... autonomamente da chi si fa l'innesto. Certo, poi se ti rubano il telefono, comunque così te sei tranquillo che puoi comunque entrare al lavoro senza problemi. Ci mancherebbe. Spero tra l'altro io ho... Se può essere una tranquillità. volevo dare uno spunto al gruppo, perché secondo me a questo punto bisogna anche un attimo prevedere il futuro. Io farei invece dei lettori, tipo dei POS, da mettere nelle mani, sempre sotto pelle, così che quando stringi la mano a quelli che hanno il coso di pagamento, gli inculi i soldi. Oh, ma sei sempre che pensi a come fregare i soldi, guarda, c'è proprio un vecchietto rancoroso, non gli sa la pensione. Gli hanno, Sì, hanno fregato oggi tutto al bar, a briscola. Oh, dici. Caro Steam, per continuare sull'onda del raccapricciante, ti dico che esistono degli impianti, degli insti, che servono solamente a pagare con la carta, quindi il contactless, ok? Tu prendi la carta, la copi e te la metti sulla mano. Questi innesti qui, essendo sotto Sistema poi tutte tutto. le carte, quindi la scadenza delle carte in sé, ogni 5 anni vanno sostituiti. E quindi ci sono delle persone che si fanno fare un'operazione chirurgica online per farla poi dopo 5 anni solo per pagare. E boh, è una cosa un po' assurda questa Allora, qui. ecco, su Beh, si vede questo che mi hanno sento di tanti soldi. giudicare, sì. Si vede che hanno tanti soldi. Sì, sicuramente hanno tanti soldi da buttare. E in ogni caso, ecco, su questo possiamo giudicare. Anche su questo, sul badge, io mi sento di essere giudicante. E sì, poi vedevo anche biglietti da visita. Bello biglietti da visita, eh? Bello, eh? Oh, C'ha quel non l'amore. so che de Sì. apocalittico, presentarsi con la mano direttamente. Poi ci sarà sicuramente qualche funzione da ipocondriaco, tipo, che ne so, la rilevazione biometrica di ogni tua cosa che sta succedendo in ogni secondo, tipo battito cardiaco, tutte queste robe qua, no? Cioè, immagino ci saranno Sì, applicazioni. voglia. Sulla sensoristica, però, invece, ne parliamo tra un pochino perché ci abbiamo da dire anche su quello. Non ci mancherebbe che non anche lì dobbiamo arrivare. E ci ascoltiamo però prima un pezzo di musica, secondo me, se siete d'accordo. Comunque, No, ora non me la fai voi siete mettere. No, vabbè. voi anziani siete tutti a farle critiche, però poi io lo so, tra 10 minuti cambiate idea, girate tutti col sensorino, con le cose nelle mani. Voi giovani. Esatto, ecco, t'hanno Guarda, l'unica censurato. lancia a favore da spezzare, credo, tra virgolette, e nel PS di una lettera, è aprire i lucchetti elettronici, perché effettivamente avere una chiave nella mano, però si può fare anche quello. Questo è Si può effettivamente prendere un lucchetto interessante. qualsiasi. Vabbè, però E dai, questo qui ha una la tasca. sua Ma utilità. vuoi mettere il fascino di usare le tasche? Prendere una cosa, mettersela in tasca, tirarla fuori, L'analogico vince, anziché. l'analogico vince. Siamo dei fan dell'analogico, non ci possiamo fare niente. E quindi ora ci ascoltiamo un altro brano musicale assolutamente non analogico, perché lo stiamo mandando attraverso un computer, ma voi fate finta che è con un vinile, ecco. Thank you. Vorrei anche dire che in genere c'è qualcuno in questa radio che mi prende sempre in giro perché io metto diaframma e musica come questa, e vorrei dire che non sono stata io, che questa volta la selezione musicale non l'ho messa io, giuro. Certo, sballettavo mentre andava, ma comunque non era volontario, non sono stata io. No, perché poi lo so che me lo rinfacciano. Ma non ci crediamo, E come comunque non mai? erano i diaframma, ignoranti, che non siete altro, ecco. Ebbene, quindi siamo arrivati alla sensoristica. Esatto, la sensoristica. E qui forse c'è uno di quei pochi casi d'uso che effettivamente mi piacciono e che hanno una funzionalità. Però prima partiamo da quelli in Altri cui due. la funzionalità non la giudico io, non la giudica nessuno, boh, nel senso giudicherete i giudicatori. Allora, sensoristica, i sensori sottocutanei, quello di che viene un po'. Forse è naturale pensare a innestarsi nel corpo e rilevare tutto quello che sono i valori corporei. Un mio desiderio che vorrei rilevare sono le calorie che immetto nel mio corpo, ma questa è una piccola cosina da parte che ancora non esiste. Nelle altre cose ci sono altre due funzionalità che non hanno, hanno un'utilità di per sé, che è circadia. Circa, che è un innesto fatto nel 2013, è un innesto molto molto molto grande, mi spelle che si vede fortissimo, in quanto usa una batteria e trasmette la temperatura corporea ed altri valori attraverso un wifi al PC del grinder che ha creato questo oggettino qui. Su questa falsariga Questa cosa della qua, cattura scusa, di valori corporei. Questa cosa qua si chiama, hai detto circadia? Quindi immagino sui ritmi circadiani, quindi mi stai parlando praticamente, cioè, di una combo naturalistico, fricchettona, embedded technology, cioè, proprio. E ci stai proponendo Sì, queste cioè. cose? A occhio, È come la cosa quella che No, ti fa allora, io lo sto vedere di che umore sei. trasmettendo. No, no, scherzo. No, Chi è no, io Zac sono un ora? messaggero. Bene, No, bene, no, dicevi le altre applicazioni. allora, su uno dei Grindfest che ci sono in giro per l'America Centrale, c'è stato questo tizio qui che è definito Grindr, che si è innestato questa robina qui che è alta in mezzo a 1 cm di altezza per altri 4-5 cm di larghezza nell'avambraccio, se non sbaglio destro, è una cosa sinistro, scusate, che è una cosa allucinante, che misura solamente la temperatura corporea ed è stato uno dei primi innesti che riusciva a trasmettere attraverso il wifi. E poi magari faccio un piccolo preambolo sulle difficoltà di alimentare questi circuiti qui, ed effettivamente usava una batteria al litio. E altri innesti sulla parte sensoristica è il North Pole, che fondamentalmente è un piccolo innesto, più o meno piccolo, che va al centro del petto e vibra ogni volta che si rivolge a nord, permettendo Ma perché? poi all'utente, che così sa il nord. Order, Ho cioè gli capito che serve, sei che una ne so, tu bussola. non dici mai, ma Cioè, tu non dici mai ma le poi, direzioni ma così, metti io il sogno le del dico vichingo. sempre, no? Tu Cioè, ma poi invece ti prova a usano, ti calcolare. mettono nelle navi, Metti che per caso. Ah, se solo avessimo una bussola. No, ma metti che Io. si incrocia con il cercafase man, cioè se gli punta il No, si dito, fottono a lo vicenda, si spara. confondono, bellissimo, bellissimo, sarebbe l'incontro più sbagliato del mondo, bellissimo. Cioè due con quelle tecnologie sottopelle del genere che si incontrano, veramente strepitoso, molto bello. Dove vai te stasera? Di qua, ma dove? Può essere il nord, può essere il sud, l'est, l'ovest, lo sa solo il Nordman, cioè. Certo. Solo il suo petto. Un altro innesto carino, questo effettivamente c'ha un uso e l'ho visto su un mio amico che che ha effettivamente cambiato la vita su questa parte qui, che è un sensore sottocutaneo che analizza la quantità di zucchero nel sangue. Essendo lui diabetico, c'ha questo strumentino qui messo peraltro da di che analizzava in tempo reale il sangue e attivava una pompa che pompava l'insulina, che era semi permanente, nel senso che c'era attaccata H24 ed effettivamente era un sistema autonomo, non so se si può dire veramente. E effettivamente lui, non dovendo più fare iniezioni di insulina e doversi controllare praticamente il sangue, cazzo, gliel'ha migliorata la vita, effettivamente era molto più tranquillo. Ma questi sono quegli ambiti lì che mi fanno dire che ci sta. Ma invece dicevi, vabbè, ma dicevi delle, per ricaricarle queste cose com'è che funziona invece? Cioè com'è appunto che una batteria, come la ricarichi la batteria sotto pelle? Il problema più grande è quello che ha frenato fino adesso questo, questa ondata qui di impianti e innesti, fondamentalmente l'alimentazione. L'alimentazione è il problema più grande, perché mettersi una batteria al litio all'interno del corpo è una cosa assolutamente da psicopatici mentali, e a quel punto si deve optare per quello che ti offre il corpo. A quel punto c'hai fondamentalmente due opzioni, il che ricade sul calore che uno sviluppa naturalmente dalla digestione, sì, del metabolismo, e c'è un paper, effettivamente un white paper sull'utilizzo del sudore umano per produrre energia, e funziona, si è raggiunto un 1070 microvolt, microwatt, che microvolt, microwatt, scusate, per centimetro quadrato, che può alimentare pochissimo. Okay. Però è un inizio, e effettivamente c'è un'altra soluzione, che possono essere le batterie a stato solido, che è quasi un mito ormai da anni e anni che le profetizzano, però bisogna vedere un attimino come si sviluppa quella parte lì. Io propongo anche le batterie al cadmio, così se c'è uno sversamento siamo sicuri che proprio non c'è versi di sopravvivere. Sei sempre punitivo. Stai per andare a letto, di verità. È una certa. Ma no, aspetta, mo gli tiro giù. Sì. La bomba delle cuffie. Infatti quella ti volevo lanciare, perché cioè le cuffie, cioè comunque a noi di Radio Wombat questa cosa interessa parecchio. È un gadget che forse ci potremmo fare un pensierino. Allora, è un gadget un po' invasivo in verità, perché nel 2013, che nel 2013 sono successe un botto di robe su questa ondata qui, su questo stile. Si è messo, si è impiantato due magneti, ognuno per ogni lobo dell'orecchio, e attraverso una collana di rame messa intorno al collo, una collana, si è messo un trasmettitore collegato a un microfono, e il movimento dei magneti gli fa vibrare quello che sono gli orecchi, poi le ossa del cranio, in gergo, ne sono una sega io. Effettivamente lui sente la musica in questo modo. Cioè, aspetta. Ed è una cosa un po' assurda. Aspetta, perché ti abbiamo perso, abbiamo capito un terzo delle cose che hai detto. Cioè, già è strano, così è ancora... è troppo strano. È troppo strano, cioè, sì. Praticamente ti hai una sorta di... cioè, invece di avere un piezo, cioè, questo qui fa le veci di un microfono a piezo. Cioè, praticamente ti prende le vibrazioni e con l'elettricità, dovuta al fatto che è un chip, in qualche maniera... ma perché poi non le passa al cervello? Cioè amplifica le vibrazioni attraverso la conduzione ossea. Non ho capito niente di cosa hai detto, ma può darsi? Allora, effettivamente poi come nello specifico ricade, non lo so. Cioè gli apparecchi acustici funzionano quello così. Che a lui ha fatto. Quelli per, appunto per il nostro collega... il nostro amico. Che non so se ci sta sentendo. Come? comunque sia, sì, quelli lì funzionano praticamente in quella maniera là. Cioè, semplicemente fanno risuonare tutto l'apparato in maniera più forte. però li infili dentro, tocca il timpano, gli ossettini, però quello non è sottopelle, quello è appunto, è tipo, è come infatti. l'occhiale, ecco. Che hai detto? E però effettivamente questo tipo se l'è messi sotto pelle, cioè è un po' un'invasione completa delle tue orecchie mettendosi un magnete e lui effettivamente riesce a sentire la musica in questo modo. Hai capito? Dice così, poi ovviamente, Sai che Chiama finché non ci si prevenzione. mette almeno... Sai che È una palle? prevenzione, è una prevenzione. Ha anticipato i tempi. Si è preparato a iPhone e ci è arrivato prima. Sì, Questa è una pubblicità pregresso? Lo devo chiedere subito. Da sì. contratto con la radio. Sì, in effetti un po' sì, è un po' regresso anche questa pubblicità, ma quindi, allora, andiamo velocemente sulle altre cose perché poi la connessione internet ci sta sempre, sempre più peggiorando e quindi vi sentiamo sempre peggio. E, dopo le cuffie abbiamo un po' gli ultimi esempietti, no? Esatto, cioè abbiamo quelle che sono i nootropics, che sono i nootropi in italiano, che non so se sia una traduzione giusta effettivamente. Sono tutte quelle cosiddette delle smart drugs oppure delle medicinali neanche, ma in realtà sono dei cambiamenti di dieta secondo diverse persone ti permettono di avere un piccolo edge, un piccolo passo avanti a livello E mentale, cioè si parte dal classico Adderall che ti pompa al massimo il cervello fino a sostituire il caffè con quello che è poi la L-teina e l'olio di pesce, il cava e delle altre cosine qui in giro. quindi te citi È nello un stesso po' un video. argomento. No, vai, Come? scusa. Vai, scusa. È un po' un argomento assurdo perché si tratta di... cioè, è un meccanismo biologico stracomplesso in cui ci sono tantissimi fattori e effettivamente da quello che se uno considera effettivamente la caffeina come uno strumento, come una droga per il cambiamento di alcune percezioni, lo può considerare per altre cose come possono essere la taina, il cava e... Un'altra cosa che non so pronunciare, devo essere sincero. Ce l'ho segnato ma non lo so dire. C'è tutto questo fattore qui che si rimbalza quello che può essere il neurohacking, che è sempre una pagina di Wikipedia, peraltro, con tutte queste piccole cosine qui. La cosa che mi E tu. impressiona in queste cose che stavi raccontando è che poi spesso è vero che l'abbiamo messo tra gli esempi di appunto biohacking piacevole in qualche modo, quantomeno ricercato, cioè non imposto, ma insomma volontario, ecco, quantomeno. Però è anche vero che tutti gli esempi che hai fatto, forse un po' tutti, tranne magari quello in campo medico, cioè, ci puoi notare un po' un nesso che è quello del produttivismo. Cioè, in fondo, se guardi. L'ottica è quella di migliorare, l'essere umano e migliorarlo però in che verso, cioè in che direzione, cosa consideriamo migliore e cosa peggiore, cioè tu sei migliore se sei sempre sveglio perché c'hai un chip che ti pompa caffeina all'infinito, perché devi sempre essere sveglio? Di base perché devi reagire in continuazione, perché devi lavorare in continuazione. Quindi è strano come anche in fondo questi esempi, che sono degli esempi ben diversi da quelli che facevamo invece a inizio trasmissione, però forse di fondo la logica non è tanto diversa, cioè un concetto di essere umano fallace, sì, però il perché, cioè cos'è che c'è di sbagliato, cos'è che va compensato e in che direzione. E questo forse è una parte critica che, non man che manca un po', cioè generalmente la critica più frequente che si sente fare a questo tipo di cose è il, o banalmente, ma perché lo devi fare? Ma anche il Ma stai violando la natura, cosa che a me personalmente non me ne può fregare di meno, non ho il mito della natura, però mi spaventa un po' il vedere che spesso, non dico sempre, non mi permetterei mai, però spesso la logica che c'è dietro è un po' considerare appunto come dire, una mancanza dell'essere umano a non soddisfare determinati standard che però ti sono invece imposti dall'alto. E quindi magari questo, cioè un po' effettivamente negli esempi che te citavi, che sono anche divertenti, però un po' mi spaventa, devo dire. È verissimo in realtà, perché riguardando adesso con quest'ottica che mi hai detto, cioè in realtà vanno tutti quanti verso l'efficienza, il che è spaventoso. Non è bello. Anche per esempio guardavo adesso l'RFID o l'NFC per beggiare, cioè, o il pagare o i biglietti da visita, sono tutti, cioè, strumenti che servono a rendere una cosa efficiente, cioè a rendere efficiente la commercializzazione di se stesso a un certo punto di vista, perché più innesca Quando lo di dicevo io, innovazione. però, ai miei tempi. Ovvio, ovvio, sì. Ragione. Sì. Tu l'avevi capito prima degli altri. Mi voglio scusare con tutti quelli che si chiamano Alfredo, ma ti chiamerò Alfredo. Allora, buttiamo giù l'ultimo argomento, che è un argomento che ho abbastanza ricercato. Ho ricercato per la mia personale guerra contro l'acufene. E mi scuso per gli ascoltatori con l'acufene perché ci ho fatto pensare, quindi vi Tossa la via. risuonerà Potentissimo. potentissimo. E fondamentalmente è una terapia che è la trasmissione di corrente elettrica su alcune posizioni del cranio, del cervello. Ok, metà, dovevo mettere uno slash lì, Ma che io non provoca so delle cos'è. sensazioni, delle cose. Allora, Cos'è fondamentalmente l'acufene? è un apparecchio. Cosa? No, abbiamo delle difficoltà, effettivamente nessuno, cioè eravamo tutti Sì, imbarazzati a cos'è l'acufene? chiedertelo. Cioè, almeno io. Cioè, si può dire in Allora, pubblico acufene? l'acufene. L'acufene è un sibilo, un fischio che alcune persone sentono costantemente. Ah. Soprattutto nel silenzio più totale, ma non per forza. E solitamente una delle terapie consigliate contro l'acufene per non sentire questo sibilo, questo fischio costante che va al di fuori dei rumori, è come la cosa molto figa che mi ha spiegato un dottore, è che è come se tu nella testa avessi una radio e quella radio è sintonizzata, essendo su Radio Wombat. La radio di chi ha l'acufene è sintonizzata su una frequenza diversa dal campo dei rumori che uno può E sentire quindi naturalmente. Si sente sempre un sibilo, un fischio, per l'appunto perché non c'è nessun rumore che copre quella parte lì. E Ok. questo è l'acufene, è sempre un costante, bruttissimo. Ne parla anche Oliver Sacks in uno dei suoi splendidi libri, Musicofilia. La butto lì, l'unica cosa che so, ve la butto. Così. Così. Ciao, merde. Volevo dire un nome colto, non volevo fare. Bello, interessante, lo voglio leggere. Comunque invece su E... tutte queste applicazioni che dicevi, ho letto un bel po' di articoli dove fanno appunto degli studi psicologici su ma perché le persone si fanno queste cose. E, cioè nel senso, e ovviamente si prova a mettere, no, sulla bilancia i rischi con, insomma, mettersi il cadmio sotto un'unghia con l'ansia del sapere costantemente il tuo battito cardiaco. Però è buffo perché comunque sia, c'è molto interesse, ecco, sul sapere quale sia il meccanismo per cui te lo fai. Cioè, ovviamente noi ci scherziamo, diciamo, vabbè, sì, sti fulminati, però insomma, è molto ricercata anche proprio l'aspetto psicologico di come una persona possa accettare certi rischi, eccetera, eccetera, insomma. Beh, in effetti comunque sull'episodio che ci raccontavi sulla cufene, il perché è abbastanza evidente, cioè lì c'è un fastidio e hai solo bisogno di qualcuno che te lo levi in maniera, cioè saresti probabilmente disposto a tutto per levartelo. C'è Beh, sì, un pochino. Come? molta confusione nel mondo. Dove stiamo andando? Per come cosa? Per quando? Dove? È una puntata un po' così. Comunque è colpa appunto, dei nostri mezzi tecnologici, non è colpa nostra. Noi non siamo assolutamente confusi. È colpa della tecnica. Bene, Red, ma quindi ci avevi da finire di raccontarci la cosa sulla cufene e su questo appunto mondo che ci hai aperto oppure no? Esatto, un piccolissimo trancio che è per l'appunto questa terapia che va a immettere una corrente a bassissima tensione e bassissima corrente su alcuni punti specifici del cranio che effettivamente leggendo in giro non so se sia una fuffa a piede libero oppure no, ci sono diversi paper fatti da alcune università, ma lì va un boh. Cioè, leggendo comunque in quello che può essere internetto, è un po' una soluzione sagace, che vanno a cogliere alcuni punti che sono come l'acufene, oppure che vanno a scaturare delle sensazioni di ansia, oppure di gioia, immettendo quelle correnti lì, in quei punti specifici. Però sempre nel biohacking, e questa è una cosa che un pochino chi vuole approfondire deve avere sempre in testa, va fatta molta ricerca e va capito quelle che sono delle cazzate, effettivamente, oppure vera realtà con uno studio scientifico dietro. Qui si entra un po', purtroppo essendo tutta una parte non regolata che può essere buono o brutto, questo non lo so. Non è comunque una scienza esatta, per quanto si può dire. Quindi tutta quanta questa parte che possono essere i magneti, NFC, trasmettitori e quant'altro, tutto molto molto allo stato embrionale, effettivamente, alla grande. Sì, quello che magari abbiamo provato a fare stasera, più che darvi certezze, che chiaramente tutto si era capito che non è proprio il nostro forte, è magari, almeno in questo ambito, però è da fare, non lo so, una panoramica, un po' una carrellata e magari lasciarvi anche con dei dubbi, con degli spunti critici per appunto provare a non banalizzare la questione, ma magari approcciarla attraverso delle letture un po' più, insomma, meno banali, ecco, meno semplicistiche. Però poi chiaramente si diceva un argomento molto vasto, anche molto complesso e controverso, mi verrebbe da dire, e su cui magari è difficile anche avere una posizione ora come ora, perché appunto è vero quello che dicevi anche ora, che già distinguere la fuffa totale dalle cose che effettivamente stanno in piedi, cioè che hanno un qualche tipo di credibilità, è già difficile questo, figuriamoci farsi un'idea completa, ecco, però sì, magari qualche spunto critico ve l'abbiamo dato. Con sempre questi delay, ma Questi sono i dubbi che abbiamo creato. sì, che rimangono nel vuoto. Va bene, che dite? Ci salutiamo e salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici o avete qualcosa da aggiungere, a parte qualche improperio che mi immagino Alfredo dovrà Sicuramente. lanciare? No, io lancio l'ultima improperia che il James Webb Telescope è arrivato Bugato. a L2. Oh! Quindi è arrivato sano e salvo, sta funzionando tutto, tra un po' qualche mese, forse ancora, inizierà a mandare delle immagini bellissime. Siamo molto contenti. E... Ma ci arrivano queste immagini? Cioè, te poi ce le mandi, ce le giri? Sì, eh. Sì, ve le Ok. giro io, chiedo alla NASA e ve le porto. Vai, vai. Perché, cioè, non vorremmo I tuoi rimanere... canali, insomma, Esatto. sono... Ma sei poteri forti, lo sappiamo. Cioè... No, ma io sono sempre amico dei poteri forti. Mi Bene. raccomando, poteri forti all'ascolto, eh? Vi accordate... Segnatevi il mio nome. Alfredo. Bene, allora, quindi dopo questo accorato appello, vi direi che vi lasciamo, sono le 22:47, almeno questo dice il Wombat orologio, e direi che insomma si è fatta una certa, vi possiamo lasciare salutare e dare appuntamento non al prossimo giovedì, ma a quello dopo ancora, non mi ricordo minimamente, il 3 marzo, ecco, quindi sorpassiamo febbraio e andiamo direttamente incontro alla primavera. E vi diamo appuntamento quindi a tra poco e vi lasciamo in compagnia della bobina di Radio Wombat e delle repliche, ovviamente, poi i programmi in diretta ricominceranno domani. Quindi a presto. Ah, no, scusate, a presto niente, vi volevo invece invitare, perché siamo proprio degli ingenui e delle ingenue, perché questo sabato l'E-Club Eh già, sì. si materializzerà in quel del Next Emerson di Firenze con un pomeriggio dedicato all'autoriparazione, all'autocostruzione, e facciamo questo pomeriggio di Repair Day, l'abbiamo chiamato così, dove invitiamo chi vuole a portarci elettrodomestici, cose, computer sono noiosi, non ci portate i computer che poi ci annoiamo, preferiamo frullatori, ma Cose meccaniche, sì. sì, robe così, casse, non lo so, e noi proviamo a ripararle. Poi certo, Ce lo se facciamo insieme a... più che altro, I poi primi. se non ci riesce ve le riportate a casa, comunque non ce la smollate. Impianti sottopelle, ricordiamoci, ripariamo anche impianti sottopelle. Certo, soprattutto. Patata al forno, un po' di tutto, sì. Apparecchi acustici, sì, tutto. Pasta e fagioli. Ma sono fagioli. Sì, poi proseguirà dopo il pomeriggio, inizia alle 4:30 con appunto questo appuntamento. Poi proseguirà con la proiezione di Nine, che è un'animazione che se non avete visto correte a vederla perché è molto bella. È un'animazione post-apocalittica, un po' steampunk, divertente, molto bellina. E poi a seguire c'è la cena cucinata dalla Palestra Popolare San Pietrino e poi un po' di dischi, un po' di musichette fino a mezzanotte. Quindi vi aspettiamo, venite a trovarci e ci potrete appunto co conoscere con i vostri chip sottopelle magnetici. A presto quindi. Ciao. Ciao ciao! Ciao belli. Ciao. Ciao.